Now for the final set of new words and phrases. As always... Ascolti l'italiano, l'inglese, di nuovo l'italiano e poi ripeta. Ancora. Still. Ancora. Meglio. Better. Meglio. In contanti. Cash. In contanti. Oddio. Oh my God. Oddio. Il ragazzo. The boy. Il ragazzo. Take a moment to review that new language, and when you feel confident with it, listen to the final dialogue.